Radio Godzilla! Radio Godzilla! Radio Godzilla! Radio Godzilla! In the water of the toilet, I wash my hands in the beauty of your tears. And every time I see you smile, I feel like drowning in the Nile. I break my feet on the pathway to forgiveness, I break my feet on the beauty of your stairs. And every step I try to take, I realize it's all a fake. Of the sunshine, I burn my tongue in the beauty of your grace, and every time I feel your ire. Ci riprendiamo uno spazio radiofonico dalla pancia di Godzilla, quindi una fascia oraria che è questa che ci appartiene. Quindi oggi ci ritroviamo insieme a due amici, compagni, e volevamo iniziare un discorso, soltanto iniziare perché è un discorso molto lungo e che necessiterebbe di numerose trasmissioni, e però invece ci preme, volevamo cogliere l'occasione per non disperdere un'esperienza e cercare di capire bene cosa succede alle frontiere dell'Europa, quindi ci riguarda direttamente, non che le altre frontiere non ci riguardano, ci riguardino, però e questa è veramente quella ficina in cui ci ritroviamo, in tutto quel mondo di merda e tutti quegli accordi di merda fatti tra Europa e Turchia, che hanno fatto sì che della costruzione di nuovi carceri, perché solo così si possono chiamare, e che tengono detenuti e persone da tutto il mondo. E quindi oggi sono con noi di passaggio per Roma, quindi tac, subito catturati, e Ricky e Bon, e due ragazzi che hanno deciso di passare parte del loro tempo da militanti in una regione dell'Europa abbastanza difficile, soprattutto sotto questa ondata. Sì, parliamo dell'isola di Lesbos in Grecia. Quindi ciao Ricky. Ciao a tutti. E ciao Ivan. Ciao, ciao. E senza che mi dilungo tanto, perché la storia, quella che interessa, non è la mia ma è la loro storia, e quindi iniziamo un po' un racconto, e volevamo chiedere per iniziare a Von di inquadrarci un po' nel periodo storico, quindi quali le leggi, quali i concordati nel momento in cui inizia il loro racconto. Quindi a te Von, vai. Thank you. I'm going to speak in English, and Ricky will translate for me after. Lesbos is a beautiful island, a Greek island, very close to Turkey. Basically, from Lesbos you can see Turkey almost around all the island. And it's been it's a historical place where always has been a lot of migration. It's very normal for Lesbos. In 2015, arrived a lot of people. It was a lot in the news. It was with the war in Syria, and with this, after this, everything changed. Quindi parliamo di questa isola del greca, molto molto vicina alla costa turca, quasi circondata dalla Turchia, che ha avuto comunque storicamente passaggi di popoli, emigrazioni e profughi, e che dal 2015 in poi è diventata famosa, famigerata per gli sbarchi di migranti in conseguenza soprattutto della guerra siriana, ma anche dal resto, da altre parti dell'Asia. So in 2016, after a lot of media attention and a lot of political pressure, basically two regulations were enforced that changed the situation very much. Before that, people arrived to Lesbos and then within a few days were able to leave, either to the mainland of Greece or to other places in Europe. And in 2016, they re-implemented the Dublin Convention and they started the EU-Turkey deal. Dal 2016 in poi sono stati implementati degli accordi e reintrodotti dei dispositivi legali che hanno fatto sì che i migranti, che le persone che passavano da Lesbos, invece di ripartire in giro di pochi giorni, si trovano intrappolati su quest'isola, e sono i dispositivi che sono, è stata reintrodotto la Convenzione di Dublino e fatto un accordo con la Turchia. The Dublin Convention means that each migrant, each refugee has to apply for asylum in the first country in Europe where they arrive. La Convenzione di Dublino dice che il migrante, la persona che fa domanda d'asilo, lo può fare solo nel paese in cui sbarca o arriva. The EU-Turkey deal is a deal between Europe and Turkey, in which Europe is allowed to send back refugees to Turkey if they are considered to be safe there. Invece l'accordo con la Turchia si basa sul principio che pagando l'Europa, pagando la Turchia, si garantisce il fatto, la possibilità di rimandare, di deportare le persone in Turchia se viene considerato che la Turchia è un paese sicuro per loro. This means that the asylum procedure in Lesbos and the other Greek islands is not anymore about people's own country, but about their situation in Turkey. Trasformando quindi la situazione del migrante, una volta che arriva a Lesbos, quando fa domanda d'asilo, non è più, non riguarda la sua situazione diciamo internazionale, ma è una questione di la sua situazione in Turchia. This means in turn that people have to stay on Lesbos until the end of the procedure, because only from the islands they can be deported back to Turkey with the ferry. E quindi questo di conseguenza fa sì che la persona si trova ad aspettare i risultati delle procedure sull'isola. Quindi c'è una, diciamo, una restrizione geografica e crea, diciamo, questo gap. So after 2016, it meant that people had to stay much longer in Lesbos to wait for their asylum procedure. There are people staying in the camp Moria for up to 3 years, maybe even more. Moria was initially built as a transition center where people would stay, up to 2,000 people would stay for maximum 3 days. And after the EU-Turkey deal, sometimes up to 25,000 people stayed in this camp for years. Di conseguenza, il campo che era stato allestito per ospitare i migranti di passaggio, con una capacità di 2,000 posti, col fatto che le procedure prendono molto più tempo dopo l'accordo con la Turchia, ha fatto sì che ci sono trovati momenti in cui c'erano fino a 25,000 persone in questo campo che passavano anche anni in attesa. Ah, ci prendiamo solo un momento, così la trasmissione segue più fluida, ci sentiamo un po' di musica, musica scelta sempre da Ricky e Von, quindi a tema con quello di cui parliamo, e continuiamo la discussione. محلاها جدك جدك روح الحقها Ricominciamo la chiacchierata e soltanto una domanda solo per far ricominciare Von a raccontare e visto che si parlava di un campo che è arrivato anche a dei massimi di 25.000 persone e gli chiedo solo per capire un po' il contesto in cui si svolgeva tutto ciò e quante persone greche vivono su quest'isola greca? Greek people is 80.000 people on all the island. And in the main city that is close to the camp, 30.000 people. But the migrants are quite concentrated, so they are all in the camp. Sull'intera isola ci sono intorno alle 80.000 persone che vivono, diciamo autoctoni, e nella città, nella capitale dell'isola, parliamo di una cittadina di 20-30.000 persone. E i migranti comunque sono concentrati nel campo e le comunicazioni anche per venire in città sono complicate. So they also try to concentrate the people to make more easy the control and the asylum procedures. One of the things they do is detain people upon arrival. Quindi la strategia è di tenerli diciamo concentrati in questo campo sia per fare diciamo le procedure di asilo e un dispositivo che succede sono gli arresti allo sbarco appena toccano terra. The way they choose people who are arrested upon arrival is based on their nationality. They look at the percentage of people from that country who are accepted, and if this is below 25%, you are definitely arrested upon arrival because it's considered a very low chance. E questo dispositivo si basa sul fatto di gli agenti decidono di che nazionalità appartieni e se la tua nazionalità ha poche possibilità nelle statistiche delle percentuali di ottenere l'asilo, a quel punto ti arrestano. E a questo punto interrompo solo un attimo, così la chiacchierata è più chiacchierata, e per chiedere invece quanto questo tempo di detenzione, che è preventivo, no? A quanto pare, da quello che capiamo, e quanto può durare, e sia per legge, che insomma vale poco, e quanto invece in realtà può passare, che esempio episodi avete avuto in questo termine. Von? It used to be 3 months maximum detention based upon arrival, based upon nationality, but they have changed this recently to 6 months and they're in the process of changing it to 1 year. Then it's also very possible to be detained, be released after 3 months and be detained again right after. E la durata massima di detenzione preventiva era di 3 mesi, che adesso sono diventati invece di 6. Stanno lavorando per riuscire arrivare a 1 anno e comunque sono stati casi che la persona dopo 3 mesi venisse rilasciata per poi essere riarrestata poco dopo. What they basically try to do is to detain people upon arrival, make them go fast through the asylum procedure and deport them back to Turkey without them being free in the island. E quello che cercano di fare è fare questi arresti, fare la procedura il più veloce possibile per poi riuscire a deportarli in Turchia nel meno tempo possibile. In theory, this doesn't work because the procedure is very slow, so that's why sometimes people are arrested several times. Però in realtà, visto che le procedure comunque sono molto lente, succede questi casi in cui vengono rilasciati e riarrestati. The deportations to Turkey are happening in two ways. One is voluntary, that is not really voluntary, but it's under blackmail, and it's mostly people from Syria that they go by plane. E poi esiste anche la, diciamo, il ritorno volontario, che in realtà di volontario c'è poco perché è basato su dei ricatti fondamentalmente e succede soprattutto per i siriani, e questo succede con gli aeroplani. Then there is the involuntary deportation that usually is people that are in prison. First people get arrested and then they get deported. And this can be people from anywhere who didn't get their asylum. They try to make a deportation with a ferry once a week. E poi ci sono invece le deportazioni non volontarie, obbligatorie, e questo riguarda tutte le altre nazionalità. E si fa invece con i traghetti e succede una o due volte a settimana. One of the biggest shames about this is the situation in Turkey. Turkey doesn't recognize the right of being a refugee, only recognizes asylum for European people. Diciamo una cosa che aggrava la situazione è la situazione in Turchia, che in realtà il governo turco non ha mai firmato le risoluzioni sui rifugiati e l'asilo, quindi l'unico dispositivo di asilo è per alcune nazionalità europee. Then there is a special guest status for Syrian people because of the war, but they have very little rights and don't count as full citizens. Altrimenti solo nel caso dei siriani c'è uno statuto speciale di accoglienza, però comunque le persone, i siriani che vanno in Turchia non hanno nessun tipo di diritti. So what happens with many people who are deported from Greece back to Turkey? They are from countries that are not safe, but Turkey has more, it's more easy for Turkey to deport them to their country. So first, when they get deported back to Turkey, they can be detained for up to a year, and then they get anyway deported to their country by Turkey. E quello che succede ai migranti una volta arrivati in Turchia è di essere imprigionati in vere e proprie prigioni fino a un anno, per essere poi finalmente deportati nel loro paese di origine. E niente, quindi un po' similare a quella che è la situazione in Libia, che è più vicina al border nostro, dove effettivamente gli accordi in relazione tra stati confinanti fa sì solo della nuova creazione in una legislatura infame, inesistente, clandestina, per cui persone che sono migranti poi oltre ai 3 mesi, 6 mesi, perché in Italia anche 6 mesi nei CIE si poteva essere rinchiusi. E quindi diciamo che questa è una fascia di protezione europea dove la legislazione bene o male sembra abbastanza uniformata. E ci prendiamo altri 5 minuti di pausa e torniamo fra poco. Camione, tutto c'è una cascia in te, non è tarde. Sciapta un buco, e si ohe, non è tarde. Tutto c'è un e si ohe, ma se sciapta un buco, سیاهی آیه دو چشمت مثل دمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم وادی رو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوان تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ تو یه دلم جوون میکرده چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشمون سیاه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میام بارون میشه ancora su Radio Godzilla e oggi la pancia ci ha portato al confine tra Grecia e Turchia in mezzo al mare realmente. E in questo racconto qui ci troviamo sempre con Righi e Von e abbiamo capito un po' il contesto in cui il racconto sta avvenendo, quindi negli ultimi anni di politiche europee sulle migrazioni e tutto quello che hanno dovuto subire poi effettivamente i migranti in quella fascia la No Man's Land del Mediterraneo che gode di una giurisdizione a parte. Pare che in questa fascia qui si possa detenere persone senza una ragione, si possano rinchiudere senza sapere per cosa, per come, senza aver mai infranto la legge effettiva, quella del crimine universale. E quindi ritorniamo in chiacchierata e lascio il microfono a Righi. Qualcosa che secondo me è importante aggiungere è un po', diciamo, il fatto di avere creato comunque questa zona cuscinetto dove, come giustamente dicevi, tenere lontani sui confini, no? La stragrande maggioranza dei migranti che arrivano ha creato questa situazione esasperata per i migranti in primis, però anche per gli isolani. E diciamo, per molti anni c'è stata tanta solidarietà spontanea dagli abitanti di Lesbos. Con l'arrivo delle organizzazioni non governative cosiddette e tante strutture, l'ONU, una presenza molto molto molto grande di queste organizzazioni, di gente comunque che fa la solidarietà con dei buoni salari, la popolazione, diciamo, di greci ha incominciato a essere meno attiva nella solidarietà e piano piano fino ad arrivare a situazioni un po' più estreme dove, per esempio, nella primavera del 2018 c'è stato un vero e proprio pogrom nella piazza principale di Mitilini, che è durato 8 ore, in cui non è morto nessuno per miracolo, orchestrato molto bene da Alba Dorata insieme alle forze dell'ordine, per poi arrivare invece col cambio del governo all'inizio di quest'anno, all'inizio del 2020, diciamo un'escalation di violenze che sono nate, diciamo, c'è stato un momento, oserei quasi dire proprio insurrezionale, di tutta la popolazione nel momento in cui il governo ha voluto costruire un altro campo per una vera e propria prigione. C'è stato un attacco al cantiere che nel giro di 2 giorni la polizia ha dovuto proprio tornare ad Atene, e da lì, in concomitanza con, diciamo, questo gioco del presidente turco di usare, strumentalizzare i migranti per ricattare l'Europa, minacciando di aprire le gabbie e farli arrivare tutti, si è creato, diciamo, una speculazione da parte di gruppi fascisti, non solo greci ma di tutta Europa, che sono venuti diciamo in carovana dall'Irlanda, dalla Francia, dalla Germania soprattutto, e ad arman forte, diciamo, questi gruppi fascisti greci, che sono riusciti in qualche modo a coinvolgere una gran parte, diciamo, degli abitanti, un po' per mille ragioni, però usando anche questa retorica, volendo anche giusta, di critica alla speculazione, diciamo, economica che c'è sulla pelle di questa gente, che chiaramente non porta nessun cambio sistemico, perché è un indotto che comunque fa girare un volume di soldi tale che questo campo di Moria può andare avanti all'infinito. Quando erano arrivati a 10.000, dicevamo tutti: oh, ma vediamo che succede, arrivi a 25.000 e va avanti. In più, con questi, cioè, aeroplani di soldi, organizzazioni di tutto il mondo, proprio multinazionali dell'umanitariato, diciamo. Ah, quindi dopo l'assalto delle forze di pace, no? Si potrebbe dire così, che seguono di solito quelle di guerra e in tutte le missioni occidentali. E una cosa che ti volevo chiedere ci sono state libere organizzazioni di migranti, cioè dal basso si è avuta qualche autoformazione anche solo per l'autodifesa dei propri corpi o dei propri spazi, però c'è stato pure sindacale, non so, per qualche vertenza c'è stato qualche tipo di unità venuta dal basso all'interno del campo, non gestita da nessuna delle forze ufficiali. Altro che, c'è stata momenti con manifestazioni tutte le settimane, per tanti mesi ci sono stati tentativi di ribellione nel campo settimanali, comunque il campo di Moria è stato bruciato un'infinità di volte, hanno provato a bruciarlo un'infinità di volte i migranti stessi, assemblee comunque di migranti ce ne sono state, teniamo però, cioè, non dimenticare che comunque se già gli sbirri hanno la mano pesante con diciamo chi cerca, europei che cercano di dare una mano, con i migranti non erano spietati, quindi comunque tante proteste che finiscono con arresti di massa e gente che prende anche 20-30 anni di condanne, deportati, danno, diciamo, a livello educativo, danno una bella calmata, perché poi ti giochi non soltanto la possibilità col ricatto, no, di un giorno avere i documenti, ma proprio ti prendi anche 20 anni di prigione, deportazione dirette. E quindi questo negli anni ha fatto sì che sempre meno iniziative anche fiducia da parte dei migranti verso chi esprimeva solidarietà di un certo tipo, perché poi chi paga il prezzo pagano alto, insomma. E in tutto questo, magari lo affrontiamo dopo, sentiamo ancora un'altra pausa, però in tutto questo dopo affrontiamo il ruolo pure degli internazionali e di come la militanza è diretta, quella nostra, quella senza, con l'approccio più facile possibile, e che possibilità e che difficoltà ha avuto in quell'esperienza. Thank you. Siamo entrati un po' nel merito della discussione, e passati da un'infarinatura un po' della situazione geopolitica in quell'area a quello che gli abitanti residenti vivono giorno per giorno in che contesto. E già prima Righi ci ha parlato di l'organizzazione anche della destra all'interno di questa lotta di resistenza, o almeno di permanenza, non so neanche più come definirla, in quell'area, come si sono organizzate e che problemi hanno avuto i militanti contro le frontiere. Diciamo che gli attivisti, come chiamarli, apolitici, diciamo, che si sono spesi a dare un po' di solidarietà e a fare attività lì, comunque non erano così tanti in generale, in confronto a masse di volontari che venivano inquadrati in altre organizzazioni. Quello che è successo è che dal cambio di governo tutte le attività che si svolgevano comunque, dalla distribuzione del cibo, della No Border Kitchen, a assistenza agli sbarchi, sia a livello di, diciamo, di sicurezza, di che le barche non si incagliassero, sia a livello di, come dire, simbolico, di essere presenti lì prima di dar l'impasto alla polizia, o altri tipi di attività più di monitoraggio, supporto a chi veniva, chi era in prigione, o diciamo di monitoraggio di deportazioni. Tutte queste attività sono praticamente diventate impossibili da svolgere, nel senso che anche gli appuntamenti più facili con una distribuzione del cibo, comunque dovevi avere anche un gruppo di servizio d'ordine per svolgere la cosa, motorini, comunque diciamo bullizzazioni proprio gratuite, quotidiane. In più i fasci comunque hanno incominciato a fare dei posti di blocco intorno, diciamo, alla zona, la costa est, dove c'è il campo di Moria, e se ti identificavano come uno che sembrava un po' amico dei migranti, te menavano e ti spaccavano la macchina. Questo succedeva tutti i giorni. E poi, anche a livello, come dire, di repressione poliziesca, tante cose, intimidazioni, assalti proprio a case private, per un po' il target era un po' gli automobili, poi è diventata anche un po' più fisica la cosa, e tutto questo chiaramente nella collusione più totale con le forze dell'ordine. E poi c'è stato comunque l'unico, diciamo, atti di resistenza a questa situazione che hanno funzionato sono stati contro, diciamo, i fascisti che arrivavano da fuori, che lì qualche soddisfazione, insomma, si è vista. Però invece con i locali si è mosso poco, c'è stata anche, triste dirlo, comunque molta assenza da parte dei compagni greci in questa cosa, che ha fatto sì anche che le cose erano molto più complesse da gestire, un manipolo comunque di nord europei, hai molta poca possibilità di fare cose. E quindi, diciamo, si è proprio stabilizzata questa situazione quasi normale di attentati, attacchi, e nel frattempo anche a livello, come dire, ufficiale si sono regalati. Quando hanno bruciato un centro diurno, un deputato ha detto che quando l'ha visto era più bello che un tramonto a Santorini. E Frontex e la Guardia Costiera greca hanno incominciato a fare quotidianamente dei pushback, dei respingimenti in mare, anche molto violenti, con morti praticamente tutti i giorni. Che questa è anche una novità, nel senso che negli anni ce ne sono stati pochi casi che sono stati documentati, comunque una pratica illegale, e invece diciamo dalla primavera di quest'anno è diventata una prassi. E il vostro racconto si ferma qualche mese fa, penso di non sbagliare, e quella è pure una zona dove le cose cambiano velocemente, cambiano realmente anche le leggi, perché anzi in questa confusione, in questa nuvola, fanno bene gli affari, gli amici degli amici. Quindi un aggiornamento in questa situazione, se ne avete, e la situazione odierna, visto che insomma avete i vostri contatti per un aggiornamento. One of the main big news of the last month after we left, it was that on the 9th of September burned the Moria camp completely, destroyed to the ground. Diciamo un aggiornamento, diciamo la cosa più importante è stata che il 9 settembre il campo di Moria è bruciato completamente, tabula rasa. It was burned on many different places inside the camp. It seemed very well planned, and it made everybody flee from the camp and stay in the street. È stato bruciato, diciamo, in modo pianificato da più punti per più giorni, e ha fatto sì che tutta la popolazione del campo di concentramento ha dovuto scappare e si è ritrovata per strada. And this was a moment that everybody was hoping that something will change. Somehow it for many people was the only idea that was possible that might create change, to just burn down this prison. E per alcune persone, come dire, solidali con i migranti, era dato il segnale che forse finalmente con questa apocalisse potessero ricambiare, diciamo, a livello sistemico quello che la situazione di Lesbos. The reaction from Europe was very small. They took some people, some minors, some countries took some people, but it was really not enough. Da parte della comunità europea c'è stata una reazione molto fredda. Sono stati, diciamo, trasferiti fuori dalla Grecia solo dei minori, ma cifre bassissime. And one of the more problematic thing for us is that within 1 week, they, with the help of NGOs and volunteers and people who came there to do something good, they rebuild a new camp, Moria 2, in a different place, with the same conditions. Nothing got better. È una cosa un po' scioccante è stata che nel giro di una settimana non soltanto lo Stato greco e la comunità europea, ma con l'aiuto anche di volontari, di organizzazioni umanitarie, hanno ricostruito un campo che ha le stesse condizioni del precedente, a pochi chilometri da Moria, Moria 2, sì. Actually, this camp might be even worse condition because it's next to the sea, so the weather there is very heavy. It's full, surrounded by fences, and there's much more police. Sì, e in più diciamo che la situazione è pure aggravata sia dal punto di vista geografico, dove è stato, diciamo, costruito il campo, sia dal fatto che è comunque se prima comunque c'erano possibilità di uscire, diciamo, la struttura in sé non era all'altezza di contenere tutti i migranti. Adesso sono riusciti a ottenere questo, diciamo, confinamento, e c'è molta più polizia anche. After the fire, most of the people who had to run away from Moria said, we will not go back to Moria and we will not go to a new camp, we want to leave the island, but they were blackmailed by the authorities. They were told that if they don't go into the camp and register in the camp, they will be 100% sure rejected. La maggior parte delle persone che ha fuggito dal campo in fiamme aveva dichiarato che non sarebbe né tornata a Moria né che sarebbe andata in un altro campo, però diciamo purtroppo con il ricatto che uno si rifiuta di andare nel campo di registrarsi, avrebbe perso la possibilità di ottenere l'asilo. Bene, allora sentiamo un'altra traccia e poi ci avviamo verso le conclusioni di questa oretta passata insieme. به نام آزادی گفتگاهی وحشی زوز کشون رژه میرن دور قفص ها دود سیگار و لعنتی شون فوت میکردن توی نفس ها صدای گریه های بچه ها صدای مادر های بی غذا تمام این زندان پر شده از آدم های بی ملتی بی دفاع که بدون حالت ما رو که بشکن این زندان ها رو اینا که واسه حمایت اومدن همه گرگ و بی خواهر مادر رو به چه جرمی زندانی میشیم کودک هایی که محتاج خوبی هن آدم های درد کشو در من واسه زندگی آواره میشن از مرگ اومدیم به مرگ از درد اومدیم به درد از ترس وحشی های دورمون اومدیم تو جماعت وحشی در واسه وحشی کردن حیوان میبندنش غذا کم میدن حالا روز آدم های این کم همینه چون شدن زخمی تر ما آدم این چیه فرقمون ما نیستیم مجرم و حیوان کجاست اون فرهنگ غربی کجاست اون ارزش انسان شدیم یه مش خرگوش مرده که گرگا ما رو تو آب سید کنن جون میدیم که ماها نمیریم تا کشورها شکارمون کنن رسانه ها ظلم رو میبینن اما فردا گل نشون میدن نقش سازمان ملل چیه دارم از مرده ها خون میدن غذا که نی زهر ماره برادر آمده آشغال جمع کناست اعتراض کنیم چیه جوابش گاز با تو نامرد بیگناه اینجا آزادی تنابه داره واسه درآمد وجدان خوابه اگه نداری رها نمیشی زن حامل کارتون خوابه تفکر کن خدا کریمه سکوت کن اگه نداریش آزادی نشه کن بکش برا قتلش نشو جریمه یکی خوابه یکی بیدار یکی مسته یکی هوشیار یکی داغون یکی بیمار یکی عاشق یکی بیار یکی نمی کرد واسه جوونیش واسه این که چند سال حبسه عمرش شد داد که یه روزی زندگی کنه بی ترس و لرزه مهاجرم ولی گوش نمی خوابن مهاجرم ولی کارتون خوابن مهاجرم ببین چی عقشونه حرف ما رو کیا می دونه داد و بیداد همه بیزار دو سال تو چادر خوابه زیر بارون توی سر ما همه بیمار دکتر خوابه صدا میاد کمک میخواد که خدا اونجا صد من مرده سیاه‌پوست ولش بمیره کیا کشته افغان کشته سیاه‌سفید انسانی ما هر چی که بشه میگن افغان اگه یکی چاقو به دست بازم میگن مجرم افغان شده خونی همه جا و کسی حتی تخمش هم نی واسه تجارت زندانی ما حقوق بشی ارست میشم نی تو بیا جای ما بشین و ببین از این بردگی بگو برای یک لقمه نون سر خون هم رو میخورم به زور ولی حقمون رو ما میگیریم واسه حقمون ماها میمیریم تا خون توی رگ ها باشه برای آزادی ماها میمیریم امان از این روزی که همه دست به دست هم شدن ببین خرگوش های مرده این کم دست به دست هم شدن قبیل E ci avviamo verso le 7:30, è ancora Radio Godzilla, un'oretta passata insieme a due amici che ci sono venuti a trovare a Roma e niente, una situazione che hanno vissuto gli ultimi 4-5-6 anni penso di aver capito, e in una parte d'Europa particolare che è attenzionata ormai da anni e soprattutto nei rapporti che coinvolgono l'Europa con la Turchia, e così come la Libia rientra in una fascia in cui le leggi, quelle a cui siamo abituati, neanche quelle valgono. E niente, quindi cerchiamo di chiudere un po' il discorso rispetto alla situazione attuale e che evidentemente è in continuo cambiamento, e il campo abbiamo capito che è stato appena ricostruito con l'aiuto delle associazioni addirittura, per avere una prigione ancora più funzionale al sistema, e quindi diciamo che quello stimolo, quello sprint iniziale che potesse essere il fuoco rigeneratore a poter dare una nuova idea o almeno meno atroce di quella che c'era prima, non ha funzionato, non è andato avanti, insomma ci ritiriamo con il bis peggiore del primo. E niente, quindi in tutta questa bellezza ripartiamo e ridò il microfono a Righi per una conclusione sul discorso. Ma dunque, no, adesso conclusioni non saprei cosa dire, però sicuramente la lotta va avanti, compagni, il poco che c'è comunque è rimasto, cercando di adattare alla situazione è la cosa giusta da fare, e sicuramente lo scenari, anche gli scenari futuri non danno sempre quell'impressione che sarà sempre peggio, andrà sempre tutto peggio, e come dicevi anche tu, l'unica soluzione che sembrava possibile è successa e non ha dato i frutti sperati, quindi comunque rimane importante avere un'attenzione su quello che succede e il trattamento di queste persone da parte di una comunità europea che si presenta al mondo come, diciamo, i detentori dei diritti umani e del rispetto degli esseri umani, in realtà quando hanno bisogno fanno campi di concentramento, accordi sporchissimi con dittature o paesi in guerra, e comunque quello che succede a Lesbos è sicuramente esagerato, però ci sono tante piccole morie in giro per tutta Europa, le condizioni comunque dei migranti che riescono a continuare il loro viaggio gli fanno sì comunque di continuare a avere una lotta quotidiana per sopravvivere, per muoversi, per ottenere le carte, per rivedere i familiari, e questo succede un po' ovunque. Nel caso qualcuno volesse andare a farsi un giro a Lesbos, noi consigliamo di contattare la No Border Kitchen, facciamo lo spot e di scrivere a loro che insomma nella nostra esperienza sono quelli che hanno sempre, come dire, sono spesi per le cose che, diciamo, di solidarietà ai migranti, e niente, quindi in questa situazione abbiamo perlomeno un contatto, la No Border Kitchen, ve la lasciamo così, un contatto tirato lì, ma che se scrivete a Radio Godzilla sicuramente vi faremo avere le coordinate giuste per un contatto più serio di questo. E anzi, insomma, continueremo a seguire tutto quello che almeno possiamo darne una testimonianza diretta o di amici, fratelli che vivono direttamente quelle situazioni, come in Val di Susa col passaggio in montagna, come a Ventimiglia lo è stato per quello in mare verso la Francia. E quindi una delle rotte chiaramente un po' più lontana dalle nostre di confini, però è così vicina perché effettivamente è il Mediterraneo un po' la frontiera sud di questa Europa, e quindi tanto lontana non mi sembra essere. E niente, ci lasciamo così e vi ringrazio tantissimo, grazie a Righi. Grazie a tutti, grazie, è stato un piacere. Grazie Yvonne. Grazie mille. E niente, ciao, ci sentiamo la prossima settimana. شن چونه پیش پرده خینن ادی قلم گش چونه جور گچ بنر چرخ جهان زور گریدانم مره زور شن چونه پیش پرده خینن ادی قلم گش چونه جور گچ تو غزن به مره وارن شوره دلو هم تو غزن به مره وارن جنگه گچ تو غزن به مره وارن شوره دلو هم تو غزن Godzilla.